ci di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. E buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima, sono le 21.03, cominciamo con qualche minuto di ritardo, ma comunque siamo con voi e resteremo con voi con i Colori dell'Anima fino alle 22, mi raccomando rimanete sintonizzati con Radio Alma i Colori dell'Anima che, come sapete, va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, comincerei subito col salutare Anna Maria. Buonasera a tutti, ciao Rosanna. Buonasera, buonasera. E poi comincerei anche, per adesso facciamo sentire solo la voce, a salutare le ospiti di questa sera. Allora, Giovanna, buonasera. Buonasera a tutti, sono Giovanna. Buonasera Loredana. Buonasera a tutti. E infine, buonasera a Patrizia. Buonasera Patrizia. Allora, di cosa parleremo questa sera? Dunque, parleremo delle mamme di giovani, di bambini, delle mamme italiane, che vivono a Bruxelles. E vedremo un po' che cosa hanno in comune queste mamme. Anche Anna Maria è una mamma, però di una ragazza un po' più grande, tu sei fuori dal giro, tua figlia è un po' più grande, tra l'altro è stata anche con noi qui in studio qualche settimana fa quando abbiamo parlato di viaggio. Invece stasera vorremmo un po' parlare del cosa significa essere mamma per una donna italiana che vive qui in Belgio. Ma prima appunto di entrare nell'argomento, volevo chiedere, cominciare con Giovanna. Allora Giovanna, tu sei mamma di... Allora, io sono mamma di due bambine che hanno 6 anni e mezzo e 4 anni e mezzo, che sono nate qui a Bruxelles, perché io vivo qui da ormai 10 anni. Uh-huh. E quindi sono italiane, francesi, anche un po' belghe. Anche un po' belghe, va bene. E invece tu, Loredana? Allora, io sono mamma di un bambino di 2 anni e mezzo. Noi viviamo qua da 3 anni e lui è nato a Bruxelles. Si sente un po' belga tuo figlio? O si sì, sente più italiano? Si sente belga, e infatti quando gli chiedi se è italiano o se è belga, lui dice belga. Ah sì, veramente? Anche se parla poco, perché ha 2 anni e mezzo, però sì. Casa sua è Bruxelles. Ho capito. E lui tifa per il Bruxelles. Per il Bruxelles. Allora, tu Patrizia... Allora, sei mamma? Io, sì, sono mamma di un bimbo di 3 anni e mezzo e viviamo qui da 3 anni. Lui è nato in Germania, quindi è un bimbo europeo. Certamente. Però lui no, non si sente, no, ancora non riesce a capire bene quale sia la sua nazione, perché dice sono nato in Germania, la mia famiglia è italiana, vivo a Bruxelles, quindi... Ma io penso che per fortuna non si rendono ancora conto. Diciamo cittadini europei. Europeo, infatti. No, però insomma capisco che per noi è facile dire che siamo italiane, questa sera siamo 5 italiane, però effettivamente bisognerà trovare un nuovo modo di esprimersi per questi bambini, appunto non solo figli di coppie miste, ma anche di figli di italiani che si ritrovano a vivere, non dico per tutto il mondo, ma insomma per tutta l'Europa. È una nuova generazione di europei. Certo. Allora, dunque, volevo chiedere a Giovanna che colore ha scelto per questa trasmissione. Io in realtà non ho scelto un colore, ma tutti i colori dell'arcobaleno. Perché, come mai? Perché l'arcobaleno è sicuramente la cosa più disegnata da mie figlie in questi ultimi anni. Diciamo. Ma insomma è bello questo. Proprio l'arcobaleno è la cosa che piace di più in assoluto disegnare. Uh-huh. E quindi ho pensato che forse era un'idea per la trasmissione questa sera. Io avevo sera. Avuto invece un dubbio. Dimmi. L'arcobaleno, perché ce le fanno vedere di tutti i colori. Potrebbe essere un'altra chiave di interpretazione. No, anche io avevo pensato all'arcobaleno, ma perché se tutti i colori hanno un significato, le mamme hanno 1000 significati. No, io invece l'arcobaleno, perché i ruoli che ricopre la mamma, quindi tutti i ruoli di tutte le sfaccettature dell'arcobaleno, tutti i colori, quindi tutti la mamma che aiuta il figlio in tutte le fasi, quindi tutte le sfaccettature dell'arcobaleno che può ricoprire i ruoli. Che multitasking. Sì. E poi volevo sapere, poi appunto lo approfondiremo anche nel corso della trasmissione, voi lavorate o no? Per esempio, Giovanna? Sì, io lavoro quattro quinti, cioè quattro giorni alla settimana. Ho capito. Loredana? Io no, attualmente non lavoro. E prima di trasferirmi a Bruxelles sì, ma da quando vivo a Bruxelles no. Ecco, anche di questo potremmo parlare, cioè di come molte donne, magari seguendo i partner, i mariti, si sono così riconvertite e non hanno ancora trovato la loro strada. E tu, Patrizia? Io anche prima lavoravo, anche in Germania lavoravo, poi niente, ci siamo convertiti a fare la mamma, insomma. Che comunque è un lavoro a tempo pieno. Sì, sì, a tempo pieno, però è un po' diverso, uno è abituato sempre a lavorare, ricoprire il ruolo solo di mamma, e insomma, è un po' diverso. Però. Che magari nei primi anni non ti pesa, anzi... No. Molto contenta di seguire i bambini nei primi anni di vita, però pensi che da un momento in alto cresceranno, andranno a scuola, avranno delle ore solo per loro, e allora pensi che forse è il caso di riprendere, riallacciare? Questo sicuramente, questa è una cosa di cui posso parlare anch'io. Cioè, io non ho lavorato quando mia figlia era piccolina e oggi ne sono grata. Ne sono grata perché non ho avuto lo stress della crèche, dell'asilo nido, di portarli di corsa a scuola, e quindi devo dire che sono stata fortunata. Cioè, per quanti anni non hai lavorato? Fino a che età? Finché lei non ha avuto 6 anni. Ho capito, quindi proprio io l'ho seguita all'età scolare. Portavo all'asilo, cioè ho avuto il tempo di seguirla e credo che faccia la differenza, perché vedo delle mamme che sono sempre di corsa con questi bambini e per quanto sì, effettivamente lavorare è gratificante, sì, però credo che a lungo termine ripaga tantissimo il fatto di aver potuto seguire i propri figli senza troppo stress. Perché adesso immagino sì, che io come Anna Maria uso il suo stesso termine, io sono grata a Bruxelles, ma sono grata a mio marito di essere venuta qua a Bruxelles, perché così ho vissuto questi 2 anni e mezzo di mio figlio totalmente. Se fossi stata in Italia, mio figlio sarebbe stato uno di quei bambini che a 3 mesi sarebbe andato in un asilo nido e non sarebbe cresciuto come sta crescendo qui a Bruxelles. E di questo sarò sempre grata a mio marito, sempre. E vogliamo... Perché tuo marito ti sta ascoltando, ovviamente lo devi dire per forza, diciamolo. E vogliamo anche dire che questa è anche una conseguenza del fatto che non ci sono i nonni, gli zii, ecco, esatto. Sì, infatti. Che magari alle volte possono essere utili, però altre rischiano di essere un po' invadenti. Sì, sono d'accordo. Quando non ci sono si apprezzano ancora di più. A piccole dosi. No, però ecco, forse nei momenti di difficoltà un parente, certo. Un familiare potrebbe esserti di aiuto. Certo. Però il fatto che sono lontani, ecco. Per fortuna ci sono le babysitter. Allora, bene, io propongo di fare una piccola interruzione, ascoltiamo un brano musicale, ci ritroviamo fra pochi minuti, quindi su Radio Alma 101.9, mentre sono le 21:11 e state ascoltando I colori dell'anima. Ed eccoci ritornati con la nostra chiacchierata, il tema di questa sera ha i colori dell'anima e mamme italiane a Bruxelles. E le mamme qui presenti, tra l'altro qui ci sono tutte mamme, Giovanna, Loredana, Patrizia e anche Anna Maria, queste mamme hanno scelto i colori dell'arcobaleno. Ognuno ha scelto l'arcobaleno, ma è interessante dire che ognuno ha scelto l'arcobaleno per motivi diversi, quindi è simpatica questa così... le motivazioni sono simpatiche, le motivazioni che sono state date. Allora, diciamo che ovviamente oltre ad essere una chiacchierata, questa trasmissione vuole anche dare qualche informazione pratica a chi, appunto, avendo dei bambini più o meno in età di asilo, scuola materna, quindi asilo nido e anche scuola, ha dovuto affrontare una serie di problematiche e magari potrebbe dare anche qualche consiglio. Per esempio, parliamo della scelta dell'asilo nido o dell'asilo. Giovanna. Sì, devo dire che quando una sia il primo figlio, la prima sfida, direi così, è proprio la trovare la creche giusta, perché forse creche ce ne sono anche parecchie a Bruxelles, però ovviamente bisogna trovare il posto giusto, perché si affida il proprio figlio, che magari ha 4-5 mesi, a qualcuno che non si conosce bene, e ovviamente la ricerca è a volte un po' difficile. Ovviamente si cerca qualcosa che non sia lontano da casa o che sia comunque in prossimità del posto di lavoro, perché se succede qualcosa ovviamente le mamme vogliono essere più vicino possibile ai loro figli. E, è un mondo sconosciuto, perché quando si ha un figlio si comincia da zero, e quindi diciamo questa è stata un po' veramente la prima sfida a cui va incontro una mamma. E poi si sceglie una creche, non si è mai sicuri se è la creche giusta, e quindi sì, ecco. Perché in realtà nessuno te lo può spiegare se è giusta oppure no. Esatto, perché è giusta per alcune mamme, certo, ma non è giusta per te. Perché ognuno ha dei criteri di valutazione ovviamente diversi. Però poi una volta che l'importante, devo dire, almeno per me, è vedere che il bambino, tua figlia o tuo figlio siano contenti, e mi questo sono. È il primo segnale sicuramente che ti dice che forse hai scelto la creche giusta. Se il bambino va e sorride e non piange, direi che, come dice il mio pediatra, direi che è cosa non fatta. È cosa fatta. Il primo passo è fatto. Ecco, direi che questa è, diciamo, la mia esperienza personale per quanto riguarda la creche. E tu, Loredana? Noi la creche non abbiamo proprio cercata, perché appunto mio figlio era con me, quindi non abbiamo avuto questo problema. Adesso invece abbiamo il problema della materna, nel senso che da dicembre dell'anno scorso abbiamo provato a contattare le scuole materne comunali vicino casa nostra, e per ora siamo in lista di attesa in 4 scuole materne. E non sappiamo se a settembre ci sarà un posto per il nostro bambino. E la cosa, insomma, che un po' mi ha infastidito è che non ho ben capito con quale criterio abbiano fatto questa lista di attesa. Nel senso che qui a Bruxelles funziona che ogni scuola decide un giorno in cui tu cominci a chiamare telefonicamente per prendere appuntamento. E io mi ricordo bene che ho chiamato tutte le scuole nel primo giorno. Il primo giorno mi rispondeva sempre una segreteria, un messaggio di segreteria dicendo di riprovare, e il primo giorno non sono mai riuscita a parlare con nessuno. Il secondo giorno ho riprovato e mi dicevano siete già in lista di attesa, quindi non capisco come funziona questo sistema. Magicamente con il numero di telefono. non ho proprio idea, sta di fatto che noi per ora non abbiamo un posto. Direi che questa è la problematica di Bruxelles, questo sistema di telefonate, di liste d'attesa. E esiste nelle creche, nelle scuole materne e nelle scuole elementari, perché io per mia figlia più grande, che è adesso in prima elementare, l'anno scorso ho dovuto chiamare Hai dovuto fare lo stesso iter. La stesso iter, e non si sa mai quando verrà definita la lista finale e se si ha un posto o meno. Quindi questo ovviamente è motivo di stress. Caspita. Beh, certo, cioè con tutta l'organizzazione che c'è, e soprattutto appunto sapendo che uno comunque si deve sistemare il resto della sua vita, indipendentemente dal lavoro, ma proprio sapere se deve andare in un posto o in un altro, quindi non si riesce ad avere questa risposta. No. Quasi fino all'ultimo momento. Molto tardi, a giugno, quando mancano 2 mesi all'inizio dell'anno scolastico. Quindi sicuramente so che sì, molte mamme condividono si trovano in questa situazione di stress, perché non... Sì, Giovanna, tua figlia grande ha continuato la scuola nello stesso sistema scolastico della scuola materna? No, scuola materna, poi abbiamo optato per una scuola privata, perché ci dà la possibilità di avere una sezione bilingue, francese e italiano, ed era molto vicino a casa. E la scuola elementare, fortunatamente, mi ritengo ovviamente sì, privilegiata, abbiamo avuto un posto alla scuola europea. Però, capito. Siccome ce ne sono 4 di scuole europee, io avevo anche, diciamo, inviato la candidatura o l'iscrizione a altre scuole pubbliche di Bruxelles, nel caso in cui fosse inserita in una scuola troppo lontana da casa, perché io ci tenevo che sì. Non dovesse viaggiare troppo il mattino per arrivare a scuola. Sì, perché insomma, in grande città queste scuole che sono distribuite un po' dappertutto non è che sia semplicissimo per chi lavora. Certo. E tu, Patrizia? Allora, io anch'io ho avviato, cioè non è andato alla creche il bimbo perché ero a casa, quindi non è andato alla creche. Però lo stesso problema, per ovviare a tutte queste liste di attesa, noi l'abbiamo mandato in un asilo privato, pagando profumatamente, e quindi senza avere un problema di lista di attesa. Quindi come al solito quando si paga si risolve tutto, questo è il problema. Però ecco, il nostro desiderio è quello di mandarlo in una scuola pubblica, e il problema, il nostro problema è che noi siamo qui a termine, quindi il voler aspettare anni non so, dall'altro lato è uno svantaggio, perché comunque non sappiamo per quanto tempo rimarremo qua, e quindi di non mandarlo a scuola potrebbe essere uno svantaggio per Alessandro. Quindi alla fine abbiamo detto vabbè, niente, lo mandiamo in una scuola privata, e però ecco, dipende, perché la nostra esperienza è stata che comunque il bambino appena l'abbiamo mandato in questa scuola non si è trovata bene, e non si è trovato bene, e alla fine insomma non sempre i soldi o comunque il privato garantiscono la qualità di un buon servizio. Questo è importante da sottolineare. Sì. Non è detto, dipende sempre dal bambino e da come si trova il bambino nella scuola, dagli insegnanti, non è sempre detto, perché l'insegnante fa la qualità della scuola, è sempre non so. Comunque Giovanna, tu oggi una mamma italiana partorisce un bambino, che cosa le consigli? Io consiglio col senno di poi. No, io direi dunque, le creche accettano bambini a partire credo dai 3 mesi, però devo essere sincera che è veramente molto presto mettere un bambino in una creche a 3 mesi. Io le ho messe, avevano 5 mesi, quindi già per me insomma era abbastanza prematuro, perché un bambino di 5 mesi è ancora allattato, insomma comincia a essere appena svezzato, però per motivi di lavoro l'ho dovuto fare. Devo dire che in Belgio c'è appunto la possibilità del congé parental, che può essere preso come cioè si rientra al lavoro, ma si può rientrare al lavoro part time, oppure lavorando 4 giorni alla settimana. Io ho scelto questa possibilità, questa opzione, e l'ho potuto fare per 15 mesi, quindi per 15 mesi ho potuto lavorare 4 giorni alla settimana, quindi avendo un giorno a scelta alla settimana in cui potevo passare la giornata con mia figlia, e trovo che sia un buon compromesso. Sì. Poi ovviamente quando passano i 15 mesi bisogna tornare a tempo pieno, e questa è la cosa molto più difficile da fare, perché quando si è abituati a lavorare, certo, a stare con insomma un giorno alla settimana con la propria bambina. E io devo dire, ho avuto la fortuna che il mio dove lavoro hanno accettato di continuare di cambiarmi il contratto, e ho potuto continuare a lavorare a 4:15, cosa che faccio tuttora. E in questo possiamo dire almeno che qui a Bruxelles c'è questo vantaggio, perché in Italia non mi pare, io adesso è un po' che sono fuori dall'Italia, però tutti questi vantaggi per le mamme non ci sono, si lavora appunto. Ma tu per esempio, quindi prendevi il mercoledì, immagino, no? Sì, è scelta, la giornata è scelta, io ho scelto il mercoledì che è un po' un classico per le mamme. Tutte le mamme scelgono alcune mercoledì. Poi, esatto, scuole, diciamo le lezioni finiscono prima il mercoledì, e quindi dà la possibilità alla mamma di andare. Quindi la mamma la mattina si va a fare il massaggio, i capelli? No. Non proprio, pagare le bollette, in giro, dai, la spesa, mette in ordine la casa e poi va a prendere i bambini a scuola. Va bene, questa mi sembra la realtà, insomma. Vabbè, allora, io propongo ancora una piccola interruzione, ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando rimanete sintonizzati con noi, Radio Alma, i colori dell'anima, e a fra pochissimi minuti. Eccoci qua di nuovo in diretta, mentre sono le 21:30 di questo 5 maggio 2014. Vi ricordo quindi che siete all'ascolto dei Colori dell'Anima con Rosanna, Anna Maria e tre ospiti che ci stanno raccontando la loro esperienza di mamme italiane all'estero, in particolare a Bruxelles, e vorrei sentire da loro anche al di là, diciamo, di questo lavoro a tempo pieno. Giovanna ci ha mandato un video su YouTube prima della trasmissione. Era un video interessante che proponeva che cosa? Pagamento zero, però occupazione. Disponibilità 24 ore su 24. Sì. Impossibilità di sedersi, uh-huh. Quindi bisogna sempre stare in piedi, sempre sì. Essere disponibili, sempre col sorriso. Uh-huh. Voilà, questo è. È un lavoro bellissimo. Che si impara, non penso che uno lo sa fare se non ha l'esperienza dell'essere mamma. No, ma prima di chiedere di lasciare la parola a Loredana, volevo chiedere, secondo voi, siete delle donne relativamente giovani, i papà, spiegatemi, quanto sono presenti? Magari facendo il confronto con i vostri genitori, diciamo. Nel mio caso, molto presenti. Molto presenti? Sì, uh-huh. Sì, molto. Anche perché quando ritorna da lavoro si dedica completamente al figlio, uh-huh. Quindi per me è molto presente, uh-huh. Anche ci scambiamo se voglio andare a fare i capelli, scherzo, però è presente, non mi lascia, oppure se il bimbo ha qualche problema di salute è presente, si prende anche un giorno di ferie per andare dal pediatra o uh-huh. dallo specialista, uh-huh. Quello che non so, i miei non hanno fatto per motivi di lavoro, perché forse, ma anche per motivi di cultura, diversa sì, uh-huh. Sì. Quindi i papà, diciamo, facciamo il caso dei papà italiani, secondo voi sono abbastanza aperti, abbastanza, diciamo, presenti nella vita familiare? Sì. Almeno per la vostra esperienza? Sì, la mia esperienza sì. Anche dal primo giorno in cui è nato. Mio marito è stato il primo a cambiare il pannolino al nostro bambino. Sì, e poi da sempre lo mettiamo a letto insieme, cioè il rito del dormire lo facciamo sempre insieme. Mm-hmm. E anzi, Alfredo non si addormenta se non ha mamma e papà. Mm-hmm. Quindi secondo me i papà italiani adesso sono proprio presenti uh-huh. in ogni momento della vita dei loro figli. E non parliamo dei papà francesi. Sono il non plus ultra. No, ma io conosco un'altra coppia di amici, lei italiana, lui francese, e è bello che appunto il bambino, che tra l'altro è nato a Lovanio, e che questa coppia, che sono tutti e due in ospedale, quindi non solo la mamma viene ricoverata per il parto, ma anche il papà nella stessa stanzetta. E infatti anche questo papà, pure lui si vantava di aver fatto il cambio, sì, sì. Il primo cambio di pannolino al figlio. Insomma, è bello, penso, soprattutto questi primi giorni di vita, immagino, perché sono quelli sconvolgenti quando nasce un bambino, quindi che ci siano tutti e due. Allora, Loredana, ci sono delle iniziative di cui tu sei parte, che hai anche un po' così spinto, ce ne vuoi parlare magari? Sì, il primo progetto che seguo da un anno e mezzo è il progetto di una scuola italiana a Bruxelles, è nata tra una serie di mamme italiane che come me vivevano da più o meno 3, 4, 5 anni, ma anche di più, 7 anni, per dare la possibilità alle altre famiglie italiane di avere una scuola italiana, nel senso, il nostro obiettivo è quello di poter trasferire la cultura italiana anche ai nostri figli. L'idea di questa scuola è una scuola, dovrebbe essere una scuola essenzialmente bilingue, perché ci rendiamo conto che a Bruxelles c'è un ambiente internazionale, quindi oltre all'italiano probabilmente sarà insegnato anche il francese e l'inglese. Il progetto è ancora tutto in divenire, nel senso che adesso abbiamo preso i contatti con l'ambasciata italiana ci sostiene, però quello che manca fondamentalmente sono le risorse economiche e quindi adesso siamo a un punto un po' critico, perché se non troviamo le risorse economiche, pur avendo tutta la buona volontà del gruppo di lavoro, non riusciamo ad andare avanti. Ma esiste già una struttura dove eventualmente può essere accolta la scuola? Allora avevamo individuato anche una struttura. L'idea iniziale era partire con una scuola materna di almeno 3 sezioni, e il problema è che non avendo delle risorse economiche non possiamo proprio finanziarci, non abbiamo proprio la possibilità di cominciare, perché non... Perché nel progetto sarebbe eventualmente previsto un insegnamento completamente italiano, quindi... No, sarebbe previsto un insegnamento bilingue, se non addirittura trilingue. Cioè la nostra idea era prendere degli insegnanti italiani e degli insegnanti francesi, in maniera tale che le ore, il monte ore fosse diviso tra l'italiano e il francese, e al terzo anno della materna introdurre anche l'inglese. Anche l'inglese, interessante. Sì, noi abbiamo individuato anche la sede, avevamo anche messo giù dei piani di offerta formativa, però non siamo mai partiti e per settembre non partiremo, perché quello che manca è le risorse economiche. Sì. Una domanda, ma è riconosciuta? Sì, infatti noi abbiamo preso contatti con l'ufficio scolastico dell'ambasciata, e che ci ha inoltrato tutto il dossier, tutta la documentazione da avviare per ottenere il riconoscimento, in maniera tale che i bambini che vengono dall'Italia possono inserirsi, e chi vuole interrompere questa scuola può comunque inserirsi in qualsiasi altro contesto scolastico. Italiano, francese, cioè anche inglese, cioè deve essere riconosciuto, cioè quindi... Sì, perché tra l'altro noi siamo in contatto anche con la scuola italiana a Londra, e attraverso la scuola italiana a Londra abbiamo saputo che almeno per gli anni di scuola dell'obbligo tutte le scuole devono offrirti la possibilità di inserirti all'interno del loro complesso, e quindi una volta che hai il riconoscimento del titolo le scuole pubbliche sono obbligate a prenderti, questo per una direttiva europea. Chiaro, quindi è fondamentale che sia riconosciuto effettivamente. Sì. Sembra importante. Beh, speriamo che magari qualche ascoltatore riesca a far muovere qualcosa, non si sa mai. Sì, chi volesse informazioni, comunque c'è una pagina Facebook del comitato della scuola italiana a Bruxelles, e poi può anche scriverci un'email al comitato, e l'indirizzo di posta elettronica è scuolaitalianabruxelles@gmail.com. Noi siamo sempre disposti a rispondere, accettiamo aiuti di qualsiasi genere. E qui sentiamo proprio il bisogno di una mamma di continuare la tradizione italiana, perché giustamente noi ci teniamo molto. Invece Patrizia ci vuole parlare di un'altra iniziativa che non riguarda le mamme italiane o comunque i genitori italiani in particolare, ma che può essere anche interessante. Allora, io faccio parte di questa associazione, però è prettamente inglese, quindi devi parlare l'inglese. Forse potrebbe essere uno svantaggio per chi non lo parla, però ci sono i traduttori con internet, si può tradurre tranquillamente con Google. E questa associazione si chiama BCT, Brussels Child Birth Trust, ed è un'associazione, ora non sono un membro, sono un membro part time, diciamo, non sono un membro che ha fondato l'associazione, non sono neanche inglese, quindi non so. Comunque c'è da 30 anni questa associazione, e è un'associazione che dà supporto alle famiglie, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, e quindi dà supporto, organizza corsi per donne incinta, per corsi di breastfeeding, da supporto, che ne so, per allattare i bambini, da supporto alle famiglie in qualche modo se i bambini non vanno all'asilo. Quindi organizzano eventi, hanno delle sedi distaccate, una sede in Wezebenoppen e un'altra sede al centrale, Holiday Trinity mi sembra che si chiama, e praticamente ci si incontrano le mamme con i bambini e ci sono dei giorni della settimana, ognuno sceglie in base all'età del bambino e ci si incontra, si parlano, quindi si scambiano idee con le altre mamme, si affrontano le problematiche dei bambini, si canta, si gioca, i bambini si fanno delle attività ricreative per i bambini, si canta, sempre tutto in inglese, ci sono queste canzoni in inglese, i bambini mangiano, fanno delle attività, che ne so, tipo ludoteche, e poi niente. Tu riesci praticamente a conoscere altre mamme di altre culture e non so, da lì nasce cosa e non so, ti fai anche un altro giro di amicizie. E inoltre organizzano mercatini dell'usato in autunno e in primavera, dove tu puoi acquistare abiti o giocattoli, oppure rivendere abiti o giocattoli o qualsiasi altro, dicevo in inglese equipment, qualsiasi, se non mi usciva la parola, attrezzatura, mi sembra una parola pesante per i bambini, però in effetti, però comunque ciò che occorre per il bambino, non solo per i bambini, però e che è una cosa molto utile, perché è utile, secondo me. Sì, oltre ad essere utile è anche interessante, perché poi da lì comincia già da subito lo scambio interculturale per un bambino. Per un bambino, perché sì. Da lì comincia già subito a capire che ci sono bambini che parlano altre lingue, che si muovono in un modo diverso. Mi viene in mente sempre questa coppia che conosco, italo-francese, mi ha fatto ridere. Allora, ovviamente noi italiani siamo famosi perché siamo molto rumorosi, gridiamo, no? E allora... hanno notato, adesso non so se è un caso o se l'hanno notato così per la nostra cultura, che persino i giocattoli sono diversi, cioè i giocattoli francesi che fanno, per esempio, hanno le canzoncine, hanno un volume più basso, i giocattoli italiani hanno un volume altissimo, quindi magari ecco... È per evitare di sentire la mamma quando chiama. Ah, ecco. No. Però è vero, perché dalla Germania noi che veniamo, i giocattoli sono diversi, là preferiscono giocattoli in legno e quindi a noi più giocattoli di plastica, cioè già vedi una differenza di cultura, non so, però forse più pratici, meno, non so, noi è qualcosa di... Vedi, sono basici. Sono basici, sì, no, veramente vedi un cambiamento, sì. Una differenza di cultura. È bello. E, però appunto prima hai accennato al prestito, ecco, il prestito, lo scambio... diciamo il passare dei vestiti o dei giocattoli che un bambino non usa più è una pratica comune, no? Loredana, Giovanna, anche voi, per la vostra esperienza? Allora, per la mia esperienza direi di sì, nel senso che io ho sempre accettato le cose che mi prestavano e quando Alfredo mano a mano è cresciuto, le sue cose da piccolo le ho messe da parte, avevo la voglia di prestarle ad altri bambini e così sono entrata a contatto con un gruppo di mamme italiane che a Genova ha creato un gruppo che si chiama I Baby da Mamma a Mamma, da Bambino a Bambino, dove vengono appunto scambiati gli oggetti per i bambini ma anche per il prima mamma. Io mi sono innamorata subito dell'idea di questo gruppo e ho chiesto alla fondatrice, che si chiama Rossella, di poterlo esportare qui a Bruxelles e quindi sono amministratrice di questo gruppo Facebook che si chiama appunto I Baby Bruxelles da Mamma a Mamma, Bambino a Bambino, dove devo dire che non è ancora lanciatissimo come a Genova, perché è diventato anche più un gruppo di confronto. Le mamme ci scrivono per dirci dove trovo i prodotti della Plasmon qui a Bruxelles, oppure che pensi di questa crèche nel quartiere XL piuttosto che nel quartiere di UCL. Però mano a mano adesso si sta sviluppando e quindi... Quello è un inizio, immagino. È nato a settembre, quindi adesso poca la volta. Insomma, sono pochi mesi. Sono pochi mesi. A me cioè questo gruppo mi piace molto perché oltre al prestito, allo scambio, mi ha fatto conoscere altre mamme italiane e con loro abbiamo organizzato a Carnevale una bella festa con tutti i bambini. La cosa che mi è piaciuta soprattutto alla fine della festa è che tutte mi hanno ringraziato perché a quanto pare Carnevale non si festeggia e quindi loro non avevano mai avuto la possibilità di travestire i loro bambini, anzi non sapevano proprio dove trovare le maschere di Carnevale per i bambini e sono rimaste proprio entusiaste di questa festa perché pare che a Bruxelles il Carnevale molto meno, diciamo che è sentito ma in maniera diversa rispetto all'Italia indubbiamente. Sì, forse è più una festa di adulti. Sì, per i bambini dice anche i vestiti non ci sono, cioè non trovano i vestiti, molte li hanno inventati loro, li hanno costruiti da sole. No, invece la mia esperienza andando in questa associazione, io ho festeggiato il Carnevale. Però perché non è inglese. Sì, inglese. Non sì, è diventato francese, cioè non è belga, perché inglese, perché qui a Bruxelles almeno tutte le mamme... Sì, no, infatti per questo diciamo, perché non è italiana, cioè non... Sì, è un'altra... No. Vabbè, quindi insomma ci sono queste iniziative... diciamo che siete direttamente interessate, cioè siete delle mamme, mi auguro che quando troverete lavoro continuerete a seguire queste iniziative, ovviamente anche con poco tempo, Giovanna, no? Perché forse se uno lavora ha qualche difficoltà. Sì, ha forse un po' meno tempo di occuparsi, ma sicuramente questo tipo di associazioni sono molto importanti secondo me per due motivi. Uno, appunto, come dicevamo, aiutano le mamme a mettersi in contatto con altre mamme e a scambiare idee e a darsi consigli, che sembra una cosa banale, ma quando si è mamme è veramente fondamentale. Consigli vedere che una e supporto. E supporto, dire: ah, ma anche tu fai così, ah, ma anche tu hai questo problema. Almeno a me personalmente aiuta tantissimo. Anche a me. E poi appunto ad allargare la cerchia di amici, perché prima si ha magari un gruppo di amici senza figli, poi nel momento in cui si hanno figli le cose cambiano, gli orari cambiano, le abitudini cambiano, quindi è molto più semplice secondo me fare cose con persone che hanno figli, proprio perché si riesce a, insomma, ad avere gli stessi tipi di orari, il stesso ritmo, e trovo che questo tipo di associazioni o comunque di scambi siano molto importanti. Allora, un brevissimo, proprio breve, pochi secondi stacchetto musicale, poi ci avviciniamo all'ultima parte della trasmissione di oggi, che come sapete finisce alle 22, e parleremo anche nell'ultima parte dell'assenza dei nonni, che come sappiamo sono dei babysitter a buon mercato e di cui appunto chi li ha vicini ne fa un grande uso, però appunto questo non è il caso delle mamme italiane a Bruxelles, comunque fra pochi secondi. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Allora, e questo era il brevissimo stacchetto che è stato realizzato dai nostri colleghi radiofonici Angelo, che è un sassofonista, e Carla, che è appunto la voce di questa canzoncina molto simpatica, breve, ma che appunto è la sigla anche della nostra trasmissione I colori dell'anima, che va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22 su Radio Alma 101.9, e per chi non ha potuto ascoltarci, non può ascoltarci in diretta, può ritrovare la trasmissione successivamente sul nostro blog, che è radioalma.eu/i colori dell'anima. Molto semplice, no? Allora, io volevo giusto ricordare che domenica prossima è la festa della mamma. Ah, è vero! È vero. Perché noi siamo tutti qui. Quale così coincidenza. Ma ci aspettiamo qualcosa domenica. Papà, che siete all'ascolto, quindi, mi raccomando. Preparate un grande regalo. Ma è la festa della mamma belga o italiana? Italiana. E poi naturalmente anche belga, anche belga. Sì, sì, la festa della mamma coincide. Ma coincidono sempre? Sì, sempre. Ah, ok. Non la festa del papà. No. Va bene. Allora, sì, quindi insomma, auguri in anticipo a tutte queste mamme. Grazie. Mm. Allora, Giovanna, cominciamo da te. L'assenza dei nonni, delle nonne in particolare, o anche delle zie, pesa? Pesa, devo dire che pesa, nel senso che la soluzione è più facile, perché... Perché affidare il tuo figlio, tua figlia alla zia, alla nonna, al nonno... Ti fa stare tranquilla. Si può, esatto, ti fa stare tranquilla. Quando invece bisogna affidarla a una babysitter è un'altra cosa. Poi ci sono babysitter bravissime, fidatissime. E c'è anche un altro aspetto, io trovo, che il bambino non è abituato a stare con i nonni, purtroppo. Li vede 2-3 volte l'anno e questa secondo me è una... piccola carenza affettiva, devo dire, nella vita di un bambino. E crescere vicino ai nonni, alle zie, ai cugini è importante, è comunque, hanno sicuramente altre cose che in Italia non avrebbero, però io vedo che comunque quando si torna in Italia o in Francia, nel mio caso, è una grande festa ed è faticoso staccarsi quando si rientra qui. E tu, Loredana? Sì, io pensavo le stesse cose di Giovanna e pensavo che anche una grande festa quando arrivano i nonni, perché adesso ci sono i miei genitori qui a Bruxelles e quando sono arrivati Alfredo li aspettava dal mattino e ogni mezz'ora mi chiedeva: ma quando arrivano i nonni? Ma quando arrivano i nonni? E so che quando partiranno sarà un momento un po' triste, anche se io in alcuni momenti sono, tra virgolette, felice della lontananza, perché posso crescere mio figlio come voglio io e senza avere l'influenza dei nonni, che a me mancano tantissimo non soltanto quando ci sono delle emergenze, ma anche la domenica o nei giorni di festa in cui non riusciamo a rientrare in Italia, però altre volte sono contenta che non ci siano. Sempre questa contentezza tra virgolette che forse solo le mamme che vivono lontane possono condividere e capire senza essere fraintese. Patrizia? Sono d'accordissimo. Sei d'accordo su tutto? Tutti, su tutto, proprio non ho niente da aggiungere, perché sono d'accordo, perché anche per me sono contenta di aver potuto crescere o di continuare a crescere mio figlio come vogliamo noi, però ecco, in quanto ne abbiamo bisogno nei giorni di festa, ecco, anche a noi manca la presenza della famiglia. Sono d'accordo con quello che hanno detto, non ho niente. Anna Maria, tu che sei una donna esperta, una mamma esperta, cosa pensi dell'influenza dei nonni? Io sono la sostenitrice della distanza di sicurezza. Ecco. Quindi condivido appieno quello che è stato detto. Sì. La famiglia manca sempre, mancherà anche quando sono grandi, poi manca. Però è vero che vivendo in un ambiente diverso, noi siamo confrontati a situazioni diverse che magari i nostri genitori dall'Italia non potrebbero capire. Qualche volta facciamo delle cose che in Italia sono incomprensibili, ma qui le facciamo perché fanno parte della vita di questo paese, perché bisogna amalgamarsi alla fine e i nostri bambini devono crescere qui. Certo. E spesso i nonni non capiscono proprio appieno che significa, però questi bambini saranno cittadini del mondo e quindi dovranno imparare. Certo. Allora, insomma, mancano veramente pochissimi minuti. Allora io approfitto di questi ultimi 2 minuti per ringraziarvi di essere venute qui, magari tra qualche mese potrete anche ritornare a parlare della vostra esperienza, delle associazioni di cui fate parte. Non so, Loredana, vuoi ridire brevemente i Facebook, sì, i due io siti? Io magari tra qualche mese vengo a dirvi: il progetto della scuola italiana è partito, iscrivete i vostri figli alla scuola italiana di Bruxelles. E comunque chi vuole saperne chi di più? Chi vuole saperne di più può scrivere al comitato a scuolaitalianabruxelles@gmail.com oppure iscriversi alla pagina Facebook del comitato, proprio comitato Scuola Italiana di Bruxelles. Poi per chi invece ha voglia di scambiare idee, scambiare consigli, suggerimenti, oltre che vestiti, oggetti per bambini e per prima mamma, può iscriversi al gruppo I Baby Bruxelles, da mamma a mamma, da bambino a bambino. Va bene, e allora con questo quindi ti ringraziamo di essere venuta. Grazie a te per la tua ospitalità. Grazie. E grazie a Giovanna, che è già la seconda volta che viene in radio, ogni volta a parlare di cose diverse. Spero ci sia una terza. Ah, ma come no, certo che ci sarà. Basta chiedere. Comunque grazie di essere venuta, grazie, e magari sì, troveremo un'altra occasione per invitarti qui in radio. E infine grazie a Patrizia. Grazie. La nostra terza mamma. Grazie a voi. Grazie di essere venuta e appunto di aver così raccontato un po' la vostra esperienza, e ovviamente grazie ad Anna Maria. Che dire, Anna Maria? Grazie a voi, io sono sempre qua, faccio parte dell'arredamento. Infatti, dell'arredamento. E vi ricordo quindi che I Colori dell'Anima torneranno lunedì prossimo, 12 maggio, sempre alle 21. Come sapete, ogni lunedì ci sono persone diverse, comunque siamo tutti animatori di questa trasmissione, che ci diamo il cambio. E invece noi ritorneremo di nuovo a giugno, Anna Maria ed io, con una puntata tutta da organizzare. Per il momento non sappiamo ancora di cosa parleremo. Comunque vi auguriamo una bella serata, continuate a restare sintonizzati con noi Radio Alma, e a presto. Ciao a tutti, arrivederci.